Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Estremamente economico, semplice e veloce da costruire, ma affidabile. È Diego, un respiratore polmonare d'emergenza e a basso costo realizzato dall'IIT, l'Istituto Italiano di Tecnologia, e dall'Università di Ferrara. Diego sta per Device for Inspiration and Expiration, Gravity Operated, ed è pensato per poter essere distribuito senza scopo di lucro anche in paesi in via di sviluppo con difficoltà di accesso a strumentazioni mediche sofisticate, e dove in particolare la forse principale difficoltà è recuperare pezzi di ricambio e personale specializzato per fare riparazioni. Una situazione che suggerisce sempre di adottare tecnologie in cui robustezza e diciamo semplicità siano i criteri principali. Allora, di questo progetto di Diego parliamo con Luciano Fadiga, coordinatore del Centro IT di Neurofisiologia Traslazionale e professore all'Università di Ferrara, che ha ideato Diego insieme a Giulio Sandini e Diego Torazza, anche loro dell'IIT. Buonasera, buonasera Fadiga. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, ci descriva per cominciare un po' questo oggetto, che è veramente semplice, lo si trova naturalmente online, se ne trovano delle immagini. Sì, l'idea è stata, ci è venuta parlando una domenica mattina, nei momenti drammatici dell'epidemia, quando la situazione era difficile anche molto nel nostro paese, e ci siamo chiesti cosa potevamo fare. E l'idea è stata quella di pensare a qualcosa di molto semplice, replicabile ovunque, da qualsiasi persona che abbia un minimo di concezione di meccanica e un trapano, utilizzando materiali a basso costo e un motore che inizialmente era stato pensato proprio un motore da tergicristallo. L'idea era quella di appunto evitare componenti specifici, quindi accaparrabili, perché il problema grosso in questi momenti è che tutto quello che è legato alla strumentazione medica diventa difficilmente reperibile. Ovviamente qualcosa per i paesi più poveri, per chi non ha risorse e per chi si sogna la possibilità di avere un ventilatore. Il principio è semplice, è quello di fare un sistema meccanicamente sicuro, per cui la pressione che viene esercitata su questo, si chiamano palloni respiratori, ma sono quelli che si usano in tutte le ambulanze, tutti li hanno visto, quelle pallone che si schiaccia a mano. Ecco, quello lì è già un respiratore, quindi la pressione al posto delle mani era esercitata da un peso. Questo peso è fisso, viene determinato dall'operatore e viene sollevato periodicamente permettendo la espirazione. Quindi questa è stata un po' l'idea. Si regola la velocità, la frequenza elettronicamente, l'unica cosa elettronica, tutto il resto è meccanico. Regolazione dei volumi, regolazione dei tempi respiratori, e soprattutto questa idea di essere completamente libero, è già disponibile in rete il progetto meccanico, la parte di elettronica, chiunque lo può replicare, per chi non ha a disposizione le risorse che abbiamo noi. Ecco, sì, devo dire, ricorda quasi un macchinario ottocentesco, mi lasci dire così, no? Il telaio meccanico, a parte questo motore elettrico, per il resto uno guardandogli addosso capisce immediatamente come funziona, che è un grande pregio, soprattutto in certi ambiti. Può essere alimentato, so, anche a batteria o con un pannello fotovoltaico, un piccolo pannello fotovoltaico. Certo. Senta, mi faccia capire a che punto siete rispetto alla sperimentazione, per cominciare, perché la state facendo, e anche all'iter di approvazione, che sappiamo non essere un dettaglio. Guardi, la sperimentazione è già stata fatta. Noi abbiamo presentato in aprile il progetto al Comitato Etico della Regione Emilia-Romagna, che in brevissimo tempo, devo dire con grande solerzia, ha approvato lo studio clinico. Quindi quel respiratore lì ha già mantenuto in vita alcuni pazienti intubati in anestesia generale, e le sue prestazioni sono state ovviamente analoghe a quelle di un respiratore convenzionale. È chiaro che si tratta di un apparecchio di emergenza, perché non ha tutti i controlli di sicurezza di cui deve essere dotato un ventilatore polmonare, ma le prestazioni in termini di volumi, di frequenza, eccetera, eccetera, sono paragonabili a quelle di un apparecchio convenzionale. Va sorvegliato, va monitorato. D'altra parte, certo, è molto facile vedere se va o non va, perché si muove su e giù, e quindi è chiaro che c'è un monitoraggio della pressione, però insomma l'apparecchio funziona ed è stato sperimentato. Abbiamo notificato al Ministero della Salute l'apparecchio, siamo in contatto con l'ufficio col Dipartimento del Ministero per i device medicali e siamo molto vicini alla possibilità di certificarlo come device medico in classe prima, cioè la più semplice forma, certo, di certificazione, perché è un apparecchio semplice. Costo? Ma dipende, se me lo faccio io nell'officina, nell'officinetta meccanica che abbiamo qui all'università, è così basso che mi vergogno a dirlo, cioè il motorino si trova a poche decine di euro e un po' di profilati di alluminio. E se viene fatto, come in questo momento è stata fatta la preserie, per esempio da SCM, la ditta di Rimini, che ci ha dato un supporto nell'industrializzazione, se non sbaglio a loro ognuno costa sui 300 euro. E comunque per un apparato medico stiamo parlando di una cifra, sì, niente, oserei niente dire ridicola. Ve ne hanno già chiesti un po', dal Kenya se non sbaglio. Sì, dal Kenya sono arrivate richieste per una cinquantina di questi apparecchi, adesso dobbiamo mettere a punto le procedure di importazione e di esportazione. Tra l'altro si tratta di capire bene che voi sapete che in questo momento è vietata l'esportazione di apparecchi medicali per la respirazione dal nostro paese, così come è un po' dappertutto, ma sono sicuro che riusciremo a risolvere la cosa. È una macchina che può funzionare ovunque, basta attaccarla a una batteria d'automobile oppure, come diceva lei, a un pannello solare permette di mantenere in vita una persona. E se mi posso permettere una confidenza, una collega che lavora in una rianimazione e lavorava nei momenti acuti, mi disse al telefono una sera: se io ne avessi avuti qui, io li avrei usati. Cioè, nel senso, ci siamo trovati in alcuni momenti in situazioni di congestione, e quindi, però non è stato pensato, e poi mi auguro che non si ripeta mai più questa situazione in Italia. Sono altri posti adesso. Va bene, grazie, grazie Luciano Fadiga. Grazie a voi, a presto. Cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Appuntamento con Smart City domani, sempre qui su Radio 24. Buona serata.